Avvenga che canti. Passano nuvole sopra l'occhio mesto. Sono incinta d'un testo, incinta nella testa e vedo il mare. Tu lasciale passare. Se passano e ripassano davanti, sono come dei manti che porto senza essere re. Ho un mondo da mostrare e mostrarti, e tu non spaventarti più di nulla. Dalla culla alla morte era il progetto. Ma ci è mancato il tetto era una bolla di sapone. È il caso che dispone, il caso e poi la volontà, la scelta. Perché l'erba nostra è divelta?